Non una goccia di sangue, giustamente o ingiustamente versata sul ruolo della Francia, nel corso degli ultimi 20 anni era sfuggita all'inquietante talento di collezionista di Joseph Moreau d'Argy. Partendo dal principio che la grande carneficina legale era morta della sua bella morte l'11 novembre 1918, Joseph si era consacrato a dimostrare, prima a se stesso, poi a una clientela molto selezionata, che i modesti spargimenti di sangue di origine artigianale non erano che i postumi di cattive abitudini contratte nell'esercizio di quella che chiamava la produzione industriale di morte in serie. Per lui tutto era cominciato l'indomani della sua smobilitazione con la lettura di un fatto di cronaca, il racconto di una carneficina particolarmente atroce perpetrata in una fattoria della Creuse e il cui triste eroe era appunto un eroe del Chemin des Dames. L'idea di una tesi era allora germogliata nella sua testa, si riprometteva di scriverle, aveva perfino trovato il titolo. Si sarebbe intitolata La scuola di guerra del crimine e per basare i suoi lavori su esempi concreti si era abbonato a tutti i quotidiani parigini e regionali. Ma l'abbondanza di carta stampata che arrivava tutti i giorni, il tempo passato a togliere le fascette d'abbonamento che spesso si incollavano alla carta come una benda a una ferita in suppurazione, la cura che metteva nello stirare i fogli con il ferro tiepido per cancellare le pieghe che ne rendevano difficile la lettura, il ritagliare e l'incollare i materiali in grado di arricchire la pratica della scuola di guerra del crimine, l'avevano costretto a rimandare a più tardi la redazione del primo capitolo. Poiché, peraltro, la penuria di ex combattenti assassini si era fatta rapidamente sentire, Joseph Moreau si era lasciato andare a vagabondaggi di lettura che, distogliendolo dalla missione che si era prefisso, lo avevano portato a ritagliare e a incollare resoconti di delitti in cui il sangue poteva essere scorso non necessariamente per mano di un valoroso soldato, e neanche per mano di un uomo. Joseph Moreau stava scoprendo i delitti di donne. Proprietario di un bel palazzo della Rue Séguier, si era fatto sistemare un capannone in fondo al cortile dove aveva trasportato tutte le pratiche che ingombravano l'appartamento del terzo piano condiviso con la madre. A poco il capannone era passato dallo stadio di magazzino a quello di ufficio studi, poi da quello di ufficio studi a quello di gabinetto di lettura. Joseph Moreau aveva fatto arrampicare l'edera sui muri del capannone e piantato un glicine, i cui grappoli nella bella stagione ricadevano graziosamente sui vetri della porta d'ingresso. Nessuno avrebbe potuto sospettare che quel ridente padiglione ospitava la più bella collezione di misfatti, spesso inimmaginabili e tuttavia immaginati da coloro che li avevano perpetrati e i cui nomi erano accuratamente depositati sui lucidi scaffali di quella che la signora Moreau d'Argy, madre, chiamava la nazionaletta di Joseph e i suoi clienti la villa Il mio delitto. Joseph Moreau non parlava mai dei suoi clienti, servendosi di tale termine. Lui li chiamava i suoi consultanti consultori. Si passava da Moreau, non si comprava, si consultava e si pagava. Si pagava al quarto d'ora. I consultanti consultori si dividevano in due categorie, quella dei criminologi e quella dei criminofili. I criminofili passavano e ripassavano, si compravano dei quarti d'ora che a volte prolungavano fino al punto di farne delle mezze giornate. Si riconoscevano dal fatto che non prendevano appunti e richiedevano gli stessi volumi, un po' come dei melomani che rimettono indefinitamente lo stesso disco. I criminologi oltrepassavano raramente l'orario, annotavano date, luoghi, nomi, età dei testimoni e sentenze. Maurice era venuto la prima volta alla villa Il mio delitto per un universitario frequentatore abituale della libreria Villeneuve. Bella giornata, giovane consultante, erano le parole con cui lo aveva accolto un cinquantenne dalle mani curate con un doppiamento i cui cuscinetti riposavano sulla seta di una cravatta alla lavalier blu a pallini bianchi. Andremo quindi a vedere dalle parti dell'incesto, aveva risposto Joseph Moreau quando Maurice gli aveva chiesto di verificare un particolare del processo Nozière. Fu così che Maurice aveva scoperto l'insolita classificazione del metodo Moreau. Non avendo potuto portare in fondo l'opera che in altri tempi aveva sognato di consacrare a un genere molto particolare di delitti, non per questo Joseph Moreau aveva dimenticato il rispetto che nutriva per i generi in generale. Gli ripugnava l'idea di mescolare ogni cosa con il volgare pretesto di una classificazione cronologica. E la sua classificazione personale ubbidiva dunque a un giudizio soggettivo dei fatti di cronaca. Io non faccio di ogni erba un fascio, ciascuno a casa propria, usava dire quando spiegava il suo metodo. Vittime e boia riposavano quindi per famiglie e in famiglia. Ogni scaffale aveva la sua. E ogni volume di ogni scaffale portava il numero di un anno in cifre d'oro. Cominciava nel 1919 e finiva nel 1937, poiché l'anno in corso era dal rilegatore. C'erano 8 scaffali, ciascuno con un pannello su cui erano scritte le iniziali della classificazione stabilita da Moreau. OR per omicidi a scopo di rapina, DP per delitti passionali, DPO per delitti passionali omosessuali, DO per delitti omosessuali, DS per delitti sadici, OI per omicidi incestuosi, SP per esecuzioni politiche e AG per atti gratuiti. Come si vede, si preoccupava moltissimo delle sfumature e poiché aveva anche le sue simpatie, gli era capitato di cacciare da casa sua qualche consultante maleducato che pretendeva, per esempio, di far scendere al piano delle canaglie, DO, ovvero delitti omosessuali, un qualche giovane invertito, sentimentale e sfortunato che un colpo di pugnale castigliano del 700, poco abilmente inferto al cuore di un antiquario antipatico, aveva incitato Joseph Moreau a seppellire, dopo l'esecuzione capitale, negli scaffali DPO, Delitti Passionali Omosessuali, 1932. Bella giornata, giovani consultanti. Distinta compagnia, aveva esclamato Joseph Moreau, scoprendo Robert che seguiva Maurice. Questo giovane vichingo è suo fratello? Oh, non esattamente, ma è come se lo fosse, signor Moreau. Ho bisogno di un quarto d'ora, disse Maurice, posando un biglietto da 5 franchi sul tavolino intorno al quale stavano gustando dei pasticcini Joseph Moreau, la sua vecchia mamma e Silvestre Bondy, il segretario paesaggista che divideva la loro vita familiare. Devo prenderla per mano oppure sa dove dirigersi? Si informò Moreau. Lo sappiamo. Grazie, signor Moreau. Andiamo direttamente a SP, esecuzioni politiche, rispose Maurice, esumando l'anno 1926 che posò sul gran tavolo di quercia davanti a Robert, che si era seduto. Si mise accanto a lui, mentre Moreau metteva in funzione il contatore a tempo, così familiare ai giocatori di scacchi e ai consultanti della villa il mio delitto, e fu al ritmo di quel discreto tic-toc, tic-toc, che cominciarono a sfogliare. Tralasciando i primi 3 mesi dell'anno 1926, fu a partire dal 16 aprile che Maurice si mise a voltare lentamente le grandi pagine di cartoncino su cui erano incollati i ritagli di stampa che Joseph Moreau aveva ritenuto degni di attirare l'attenzione. «Eccoci!» dissero insieme sottovoce quando arrivarono alla fine di maggio. Erano stati selezionati 3 diversi titoli e ciascuno occupava una pagina che era datata in rosso. Mercoledì 26 maggio, un delitto politico. Pietlura, ex dittatore dell'Ucraina, assassinato a Parigi da uno dei suoi compatrioti. Era quello delle Eco de Paris. Pietlura, capobanda controrivoluzionario che devastò l'Ucraina, assassinato a Parigi da un israelita russo. Era quello dell'Humanité. Per odio politico, il generale Pietlura, ex presidente della Repubblica d'Ucraina, è assassinato in Rue Racine da un emigrato russo. Era quello di Le Matin. Ed ecco il mio, disse Maurice mettendo il dito su Le Matin. È buffo. Nel mio ricordo Pietro occupava tutta la pagina, mentre ci sono solo 2 colonne. Sì, ma hanno le loro 2 foto, disse Robert, e 2 sbagli d'ortografia. Guarda, l'altro lo chiamano Schwarzbar. Gli hanno fatto scomparire la T e la D alla fine. Maurice contemplava i 2 volti intravisti tanto tempo fa. Quello di Pietlura emergeva fine, aristocratico e blasé, da un colletto da ufficiale con i fregi d'oro e si distingueva appena all'inizio di un cinturone di cuoio sulla sua spalla sinistra. Quello di Schwarzbard assomigliava alle rare fotografie di Chaplin, come Charlie, non come Charlot. «Leggimi», disse Robert. E E Maurice lesse quel documento che aveva tanto sperato di ritrovare nel posto dove l'aveva lasciato, in cima agli scalini del metrò, la sera in cui era andato ad aspettare Elia alla stazione Pirenè. Lo fece con una voce un po' strozzata. Per odio politico, il generale Pietliura, ex presidente della Repubblica d'Ucraina, è assassinato in Russia da un emigrato russo. Il suo assassino, naturalizzato francese, è stato arrestato. Il dramma che si è svolto ieri pomeriggio in Rue Racine, proseguiva l'articolo, non avrà avuto il banale movente passionale che ai nostri giorni si ritrova in innumerevoli drammi parigini. L'assassino, almeno secondo quanto egli afferma, abbattendo con 7 colpi di rivoltella la sua vittima, ha voluto soddisfare un odio politico nonché confessionale. Samuel Schwarzbach, assassino israelita originario di Smolensk, in Russia, dove è nato nel 1888, peraltro naturalizzato francese durante la Grande Guerra, da diversi anni dirigeva un piccolo negozio d'orologeria al numero 82 del Boulevard de Ménilmontant. E chi avesse scorto chino sul suo tavolo da lavoro da mani a sera, con la lente sull'occhio, quel piccolo quadragenario biondastro con il camice di rigatino bianco, non l'avrebbe riconosciuto ieri, allorché, a testa nuda, sempre vestito del suo grembiule professionale, si chinava in Rue Racine con la pistola in pugno per sparare sulla sua vittima agonizzante. Erano circa le 14, un passante di una quarantina d'anni, dal viso glabro, l'aspetto curato, usciva da un ristorante di Rue Racine e si accingeva a girare l'angolo del boulevard Saint-Michel quando si sentì chiamare: «Ehi, pan Pietrura!» Pan in lingua slava significa signore o monsignore. Il passante, il cui nome era effettivamente Pietrura, si voltò. L'uomo con il camice bianco era davanti a lui e brandiva una pistola di grosso calibro. «Canaglia, difendi la tua pelle!» gli gridò. E al tempo stesso faceva fuoco 3 volte di seguito sul suo interlocutore. Questi si accasciò con il petto trapassato dai proiettili. Allora, prima che i testimoni di tale rapida scena avessero avuto il tempo di frapporsi, l'assassino, chinandosi sul ferito già rantolante, scaricava nuovamente su di lui la sua arma a 3 riprese. Stava per sparare l'ultima pallottola quando la pistola si inceppò. Samuel Schwarzbach si era raddrizzato e tranquillamente aspettava. Tese il suo revolver a un agente accorso e questi, subito aiutato dai suoi colleghi, a fatica riuscì a sottrarlo al furore della folla mentre veniva condotto al commissariato di polizia dell'Odeon. La vittima era stata rapidamente identificata. Si trattava del signor Simon Pietrura, nato il 10 maggio 1879 a Kiev, Ucraina, e abitante in Rue Thénard nel 5° distretto. Il gesto omicida dell'orologiaio Schwarzbart era un delitto politico, come lui stesso spiegò al signor Mollard, commissario di polizia del quartiere dell'Odeon. Nel 1917, dichiarò, facevo parte di una missione militare francese che si recò a Pietrogrado e a Odessa. In quel tempo sentii parlare lungamente dei massacri degli ebrei che venivano commessi in Ucraina, il cui governo provvisorio era retto da Pietrura. Cacciato dai sovietici, Pietrura doveva poi continuare a perseguitare con il suo odio la razza ebrea in Polonia e in Cecoslovacchia. A partire da quel momento decisi di vendicare i miei fratelli uccidendo quell'uomo. Una quindicina di giorni fa incontrai finalmente il mio nemico. Usciva dal ristorante ma era accompagnato da una donna e una bambina. Non volli sparare su di lui in quel momento per paura di ferire l'una o l'altra. Oggi mi sono rifatto, non ho fallito il colpo. Meglio così. Il giornale proseguiva. Il passato di Pietrura. Simon Pietrura occupava con la moglie e la figlia di una dozzina d'anni il piccolo appartamento ammobiliato di un albergo in Rue Thénard. Egli, ci ha dichiarato uno degli amici del defunto, si era messo fin dall'autunno 1917 a capo di un movimento nazionalista ucraino. Successivamente fu ministro della guerra del primo governo ucraino, dopo che il paese si fu staccato dalla Russia. Poi, dopo il colpo di Stato di Skoropadskij, fu eletto presidente del direttorio della Repubblica Democratica Ucraina. All'inizio del 1921 fu costretto a ritirarsi con l'esercito in Polonia, dove rimase fino all'autunno del 1924, poi venne in Francia. Ardente nazionalista, guidò la lotta contro il bolscevismo, ma si sosterrebbe a torto che i pogrom antiebrei furono da lui ispirati. Nel pomeriggio il signor Mollard, commissario di polizia, si è recato in compagnia dell'assassino a perquisire il suo domicilio, al numero 82 del Boulevard de Ménilmontant. Sul conto di Samuel Schwarzbard non ha raccolto che eccellenti informazioni. Schwarzbard, che fece la guerra in un'unità di fanteria francese, fu gravemente ferito nel marzo 1916 e ottenne una brillante citazione oltre alla croce di guerra. Ignoravo completamente i suoi progetti, ha dichiarato piangendo la moglie, la signora Schwarzbard. Maurice passò alla pagina seguente. Nel numero del 27 maggio Le Matin pubblicava una lettera espresso di Schwarzbard, che continuava a essere privo della T e della D, alla moglie. Mia cara moglie, farò il mio dovere e vendicherò il mio povero paese che è stato massacrato, violentato, spogliato, oppresso migliaia di volte. Ne è responsabile Pietrura. Ti prego di rimanere tranquilla e assumo tutte le responsabilità del mio atto di vendetta. Addio, Samuel. Ti rendi conto che si è fermato per strada con il camice addosso tra il Boulevard de Ménilmontant accanto a casa nostra e qui, la Rue Racine, per impostare una lettera alla moglie? Disse Maurice voltando la pagina. Nei numeri del 29 maggio l'Echo de Paris annunciava Pietro era stato assassinato per mano di Mosca e l'Humanité ritracciava la carriera, tra virgolette, dell'avventuriero Pietro senza menzionare Schwarzbard. Non sapremo mai se gli hanno restituito una D nel giornale di papà, disse Robert. L'epilogo della vicenda lo trovarono su una mezza pagina del Petit Parisien. Era un servizio fotografico, quello delle esequie del generale Pietro al cimitero di Montparnasse. Tre grandi fotografie, la vedova e l'orfana, il ritratto del defunto e una folla inginocchiata, quella formata dai 1500 ucraini di Parigi venuti a dire addio al loro capo venerato. Ma di un po', il 26 maggio era un mercoledì, perché non eravamo a scuola? Disse a un tratto Maurice. Perché non abbiamo avuto scuola né il martedì né il mercoledì, rispose Robert. Ma non so più perché. Aspetta, non c'era mica la difterite o la meningite nel quartiere? Ah, la difterite, hai ragione. È per questo che tua madre ti ha messo a letto per 24 ore. Non 24 ore, dato che il giorno dopo tu mi hai detto che ci avrebbero ammazzati tutti. Ma no, il giorno dopo era giovedì e tu hai dormito per tutta la giornata. Sei sicuro? Figurati, sono salito da te 3 volte. Strano, eppure avrei giurato. Ah, oh, sulla fragilità delle testimonianze umane, disse Joseph Moreau, che non aveva perso una sillaba della loro discussione. Devo fermare il contatore, giovani consultanti? Il vostro quarto d'ora è agli estremi. Ancora un minutino, disse Maurice. Un'occhiata sul processo e abbiamo finito. Conoscendo la vicenda che vi interessa, un'occhiata non vi basterà. I documenti che ho raccolto sull'epilogo sono estremamente abbondanti, mio giovane amico. Perciò, tornate, disse Moreau con la mano sul piccolo contatore. Maurice si contentò di aprire una pagina a caso nella voluminosa pratica del processo, giusto il tempo di leggere che si era aperto l'8 ottobre 1927 e di scoprire la foto di un uomo che cercava di dissimulare con la mano tesa verso l'obiettivo un viso sorridente e sfregiato. Stava per richiudere il volume. Si fermò, guardò ancora una volta. La mano, il sorriso, lo sfregio gli erano familiari come i fiori della carta da parati di Rue de la Mare, il riso di Sonia, i capricci di Zazà e il passo di suo padre per le scale. Eppure non riusciva a sapere per quali ragioni né da quando quell'immagine facesse così intimamente parte della sua vita. Richiuse l'album. «Può fermare i motori, signor Moreau», disse. Guardava Robert. «Non posso rigiocargli il tiro dell'io lo conosco», si disse. Bisognerà che lo trovi da solo. E cercò di cacciare momentaneamente l'impressione di già visto. Cominciava perfino a chiedersi se non appartenesse alla categoria dei falsi riconoscimenti di cui alla Sorbona Eda Villeneuve stava appunto studiando gli effetti in Bergson. Ecco fatto qualcosa di buono, esclamò Robert. Ora sappiamo che era un mercoledì alle 14, un 26 maggio e nel 1926. Quando è che il suo rilegatore le riporta l'annata in corso, signor Moreau? Chiese Maurice, rimettendo il volume sullo scaffale S.P. Quando sarà morta, poveretta, disse Moreau. Spero che non avrà lesinato sulla pelle di vitello e che avrà fatto le cose in grande per il cartonaggio, perché dall'altro ieri le sono arrivati 2 pensionanti di qualità, dichiarò Maurice, prendendo Robert a testimone. Come buffo. Ne parlavamo proprio stamani la mamma, Silvestre e io, disse Moreau masticando un pasticcino. Va a sapere dove li sistemeremo quei due là. Delicato, molto delicato. Perché? Esecuzioni politiche non le pare adatto? Suggerì Robert. Oh, se si considera attentamente i loro ritratti, si può essere perplessi, rispose Moreau, cercando l'approvazione di Sylvestre Bondy che gliela concesse, sorridendo tristemente. Chi ci dirà i legami che potevano unire quei due giovani al punto di disunirli in sì funesto modo? Boh, vuol dire che se torno in gennaio rischio di trovare il signor von Ratz, nazista, e il signor Grinspan, ebreo polacco, nel reparto dei delitti passionali omosessuali. Ma dica un po', signor Moreau, lei ci sta rifacendo il tiro di García Lorca alla rovescia? È stata proprio la milizia di Franco a fucilare il repubblicano Lorca, non il suo amante geloso, come qualcuno ha scritto. Ho talmente da fare con la Francia che queste spagnolate mi sono indifferenti. Sombrero se mantillas, insomma, disse Maurice, diventato improvvisamente pallidissimo mentre faceva schioccare le dita come nacchere. Dai, vieni, tagliamo la corda, gli disse Robert, dirigendosi verso l'uscita. Ci vediamo, giovani consultanti, disse Joseph Moreau. Non gli risposero e varcarono la porta che aveva già aperto. Non è uno svitato quel tizio, è un pericoloso imbecille, commentò Robert quando furono di nuovo in Rue Séguier. Fecero qualche passo senza dirsi niente. Pensavano alla stessa cosa e fu Robert a parlarne per primo. Come se la cavano dai Nussbaum? Ah, oh, è tremendo, disse Maurice. Ora sono 2 mesi che lo sanno. Il vecchio Nussbaum, se non altro, ha Clignancourt, che l'obbliga a muoversi, ma la vecchia Nussbaum, nessuno l'ha più vista fuori, resta seduta in cucina a piangere. La spesa da mangiare glieli fa Miriam. Ha proibito a Manolo di entrare nell'appartamento per via dell'accento spagnolo. E Samy? Ah, Samy, lui è colpevole. Come sarebbe a dire colpevole? Colpevole di tutto. Colpevole di essere il fratello vivo di un fratello morto, colpevole di averlo lasciato partire, di fare medicina, di aver litigato con Ginot 3 giorni prima che questi andasse ad arruolarsi nelle brigate, di essere stato un buon allievo del vecchio Florian, colpevole perché gli piace leggere, discutere, ridere, perché gli piacciono Fred Astaire, Trenet, Marx e Django, e colpevole d'aver buttato fuori i piagnoni del comitato che volevano fare una bicchierata con accompagnamento di marcia funebre e il ritratto di Ginot listato a lutto. Colpevole d'aver avuto abbastanza umorismo per avermelo raccontato, colpevole di vedere il sole alzarsi la mattina, colpevole, ecco. Come noi, insomma, disse Robert. Come noi, se vuoi. Erano in Rue del Seine. Vedi la mia camera e la finestra in fondo al quarto piano? Indicò Maurice quando furono all'altezza della libreria Villeneuve con la grata davanti alla vetrina. Vuoi salire? Ti farò un buon foscao. Attraversarono la via e prima di entrare nella bella casa Luigi XIII, Robert lanciò un'occhiata alla vetrina attraverso le inferriate. C'erano pochi libri, ma molto ben disposti, e soltanto opere di filosofia, di storia contemporanea e di sociologia. Oltre la vetrina, il negozio pareva molto profondo. Una ringhiera di ferro battuto senza ghirigori correva lungo la scala di pietra. Su ogni pianerottolo si fronteggiavano 2 porte dipinte di verde scuro. Al terzo piano c'era una sola porta a sinistra. A destra una scala di legno portava al pianerottolo del quarto piano con il soffitto molto basso. La camera di Maurice era in fondo al corridoio, proprio sopra l'appartamento del terzo piano. Guarda, ho 2 ingressi, o 2 uscite se preferisci. Fece notare Maurice. Sollevò una botola nel centro della stanza da cui si scopriva una scala a chiocciola che finiva sui listelli di un parquet lucidato. E te ne servi? Chiese Robert. Naturalmente, rispose Maurice richiudendo la botola. Quando i Villeneuve mi invitano oppure quando escono. Hanno 3 bambini di 7, 9 e 10 anni. Quando escono e io rimango, apro la botola e faccio la tata. Beh, insomma, li ascolto dormire. Come me, in definitiva, fece Robert ridendo. Ma io ne ho 30 che devo ascoltar dormire e non solo non dormono, ma non ho una botola da richiudere quando voglio starmene in pace. Ho solo una tenda sottile in fondo al dormitorio. Robert si era seduto sul letto. Era un vero letto a battello in legno di mogano. Contemplò il tavolo da lavoro, sovraccarico di libri e di giornali, piazzato davanti alla finestra che dava sulla cupola dell'istituto, la bella sedia di noce e il paravento ricoperto di tela di jouy dietro il quale Maurice faceva scorrere l'acqua. «Io, stile 800, sarei piuttosto cosino, ma tu sei andato a finire da Balzac, Flaubert e Stendhal. Quanti anni ha la signora Villeneuve?» «Che fesso sei!» fece Maurice posando due bicchieri e una brocca d'acqua sul tavolo. «È gente favolosa, è Villeneuve!» Aprì un armadio a muro e tirò fuori una bottiglia di whisky mezza piena che mise accanto alla brocca. «In che modo favolosa?» chiese Robert versandosi un fondo di bicchiere di whisky. «Maurice», rifletté un attimo, «beh, se per te noi siamo dei modesti giovincelli dell'Ottocento, loro, i Villeneuve, li potresti chiamare gli umanisti del Settecento. Non so se mi spiego». «Allora, alla loro salute», proclamò Robert, alzando il bicchiere. «Devono avere un bel po' di lavoro con i tempi che corrono». «Non più del solito, a quanto pare. Quando parli con loro e con la gente che viene da loro, o giù di sotto in libreria, ti accorgi che le cose sono sempre andate storte nel mondo. E loro si sono sempre occupati di quello che andava storto e della gente a cui le cose andavano storte. Giù di sotto le persone che si incontrano sono quasi tutte dei sopravvissuti di vecchie lotte non finite e di cui tu ed io non abbiamo mai sentito parlare. Non avranno mica degli chouans giù di sotto». Maurice si mise a ridere. «Non ne ho ancora visti, ma non ho ancora incontrato tutti. In compenso ho già incontrato dei tonchinesi, degli arabi e dei malgasci che mi hanno parlato dei loro generali Hoch e degli irlandesi che hanno fatto altrettanto e qualche americano del nord che mi ha raccontato del sud galante dove si impiccano i neri ai sicomori e qualche americano del sud che mi ha raccontato delle conquiste spagnole e portoghesi come non ce le hanno insegnate a scuola. E ho ascoltato parlare tra loro dei socialisti italiani, dei bundisti polacchi, dei trotskisti russi, dei comunisti ungheresi, dei nazionalisti armeni, dei vecchi turchi che militano nella gioventù turca, degli anarchici greci, dei baroni baltici, dei tedeschi. E non fanno a pugni tra loro tutte queste persone? Assolutamente no, discutono e confrontano. Che cosa? Confrontano le loro prigioni, perché quasi tutti ci sono stati, nei loro paesi per ragioni opposte spesso. Ma le loro prigioni si assomigliano e anche loro finiscono per assomigliarsi. Buffo, no?» fece Maurice, servendosi un po' di whisky con molta acqua. «Oh, da spanciarsi!» rincarò Robert. Robert voltava le spalle al caminetto di marmo nero, esaminava le foto infilate nella cornice senza più doratura e il vecchio specchio stretto e maculato. Ce n'era una molto grande al centro. «Come hai fatto?» chiese Robert. «Oh, me l'ha ingrandita un amico di Zazà, un fotografo del cinema», disse Maurice. Come su una foto di giornale, nel margine inferiore Maurice aveva scritto «Il convento, agosto 1937». Zazà, Josette e Miriam erano sedute per terra. Robert, Maurice, Samy e Gino in piedi dietro di loro e tutti e sette sorridevano davanti a un immenso camino dominato da Cristo scolpito nella pietra. I ragazzi tenevano in mano delle grandi pale e a sinistra della foto, ai piedi di una scala, un grosso mucchio di gesso disegnava una macchia bianca come neve. «È quella che ha fatto il sindaco. Io ho quell'altra», disse Robert frugando nel portafoglio. Era esattamente la stessa in piccolo, ma al posto di Ginot si vedeva un uomo di alta statura con un cappello di feltro nero come portano i montanari. Non parlava di partire per la Spagna, Ginot, quando si è cominciato a rimettere in sesto il convento, disse Robert. «No», fece Maurice, mentre Robert si chinava sulle altre foto. «No, ne parlavamo noi, Samy, tu ed io, non si faceva altro». «Non si faceva altro e non siamo partiti. Lui è partito ed è morto», mormorò Robert, continuando l'esame delle piccole foto. «Non siamo dei Katov né dei Chen, noi. Del resto neanche i nostri papà», soggiunse ridendo. «Anche il mio papà ha parlato molto di partire e poi è partito, ma è andato nell'Allier, non è la Catalogna». «Sei un po' carogna», fece Maurice, che non poté fare a meno di ridere a sua volta. «Sai che l'ho visto? Giù. Chi, il mio papà? No, Malraux. È amico di Villeneuve. È passato di volata una sera molto tardi. Ripartiva in nottata per la frontiera. Pare che non abbia mai messo i piedi in Cina. Lo so, E me ne frego, per me non cambia niente. Voglio dire, non cambia quello che c'era per me nella condizione umana. No, neanche per me, e ancora meno per lui, disse Robert, pigiando l'indice sul viso sorridente di Ginot, dal momento che lui non l'aveva mai letta, la condizione umana. Aveva fatto scivolare l'indice dal viso di Ginot al Cristo di pietra, poi fino al mucchio di gesso. I Villeneuve l'hanno vista questa foto? Sì, rispose Maurice. Devono averci preso per un oratorio. No, gliel'ho raccontato. Il campeggio in montagna, la tempesta, la tenda che smammava, i ruderi dove ci si ripara e il restauro dei ruderi. E che la rovina è nostra ora? Gli ho raccontato tutto e hanno trovato la cosa molto divertente e molto morale. Mi hanno perfino domandato se volevamo portare il figlio maggiore con noi la prossima volta che andremo su. Comunque non a Natale prossimo, ci resta troppo lavoro al primo piano, ora che abbiamo finito in basso, ma vedrai quello che si è fatto dopo la tua partenza. È Versailles, più i bagni docce della Rue des Pyrénées, disse Robert, sempre chino sulle foto. Parliamo come dei veri proprietari. No, compagno, come dei veri calhoziani. Dei calhoziani curatori e conservatori del glorioso retaggio del passato savoiardo. Mio padre Felix ce l'ha spiegato a sufficienza. Oh, e questo chi è? Robert aveva posato il dito sul solo viso sconosciuto tra tutti quelli che riempivano la cornice scrostata dello specchio. Era un piccolo cliché di fototessera. Oh, una ragazza, un inglese. Ma dica un po', Gutmann, basta che le si lasci la briglia sul collo per qualche mese ed ecco che. Ah, non dire fesserie, fece Maurice un po' seccamente. È ripartita per il suo paese, io l'amavo molto. Era quest'estate? Sì, quando ho cominciato alla libreria. E allora? Allora in settembre c'è stata a Monaco e lei se n'è tornata a casa. Non molto tempo fa, allora. No, non molto tempo fa. Robert si staccò dal caminetto e tornò a sedersi sul letto. Allora? Ora non c'è più nessuno che dorme dai bonnet, disse giocando con l'interruttore della lampada a fungo gialla che aveva appena scoperto fissata al capezzale del letto di Maurice. Sì, c'è Zazà. Ha preso il mio letto o il tuo? Ha preso un canapè, caro mio. Tutti i letti pieghevoli della casa se li ha portati via Manolo con quello di Josette quando i tuoi genitori hanno lasciato la portineria. Tua madre ha detto alla mia che c'erano quattro stanze nell'alloggio di Neuilly-le-Real, più una stanza da bagno. Già, alloggio di servizio, per spiegarlo a mia madre, non è stata una bazzecola. Per le quattro stanze e il bagno ha capito quanto a Neuilly-le-Real o meno ha fatto morire dal ridere la madre di Zazà. Insomma, per farla breve, i letti pieghevoli sono scomparsi con tutti i nostri sogni di bambini da Rue de la Mar e Zazà ormai fa i suoi in un morbido divano con un telefono al capezzale. Quello è stato il regalo da Dio di tuo padre, prima di andare ad assumere le funzioni di ricevitore principale dell'ufficio centrale delle poste e comunicazioni di Neuilly-le-Coso. Ha mandato i suoi compagnucci del 20° distretto a fare un'installazione lampo al Calhoz delle costumiste. PIR 2389, è così che si chiamano dall'ottobre. Nota bene che hanno messo un grosso straccio intorno alla suoneria per nascondere la cosa alla signora Löwenthal, per cui quando le chiamo bisogna lasciar suonare almeno 10 volte prima che rispondano. Mi dai ancora un goccio di Foscao? Chiese Robert tenendo il bicchiere a Maurice che gli versò un po' di whisky. Poi ne versò anche meno per sé con molta acqua. Insomma, tu telefoni ma non ci vai mai, riprese dopo un attimo di silenzio. Ci vado, una volta o due alla settimana, ma ho un bel po' da fare, sai, tra la Sorbona e la libreria. E poi, sei come me, c'è la sfasatura. Tu tra il sesto e il 20° distretto, io tra la Senna inferiore e l'Allier. Ma è la stessa cosa. Tu ti occupi di filosofia, io di storia, non di pelletteria né di registrazioni di vaglia. È così, bisogna saperlo e non vergognarsi. Io non mi vergogno, ma fa un po' male a momenti, quando appunto non ho voglia di andarci e telefono. Saresti dovuto venire a fare il sorvegliante con me alle Havre, così avresti avuto tutti gli alibi. No, in questo caso avrei avuto proprio l'impressione di abbandonarli. Io li ho abbandonati i miei, più una sorella in tenera età. Sì, ma i tuoi si chiamano Clément, non Gutmann, Orginsky, disse Maurice. Non vedo, ma sì, vedi benissimo. Sono i clienti della tua libreria a rifilarti le loro ossessioni, fece Robert alzando le spalle. Non c'è bisogno di loro, neanche per Zazà. Sono stato lì lì per raccontartelo poco fa, poi ho deviato verso i letti pieghevoli. Ma Zazà, quando non dorme dai bonè, vuol dire che è in esterni, come dicono nel cinema. Doveva partire la settimana scorsa come assistente di una script girl, una ragazza molto simpatica che si chiama Mimì. Non fa più i costumi? Sì, ma insieme impara il mestiere di script. Doveva dunque partire con tutta la squadra francese di un film francese con attori francesi per degli esterni in Germania. All'ultimo momento non l'hanno presa. Si sono resi conto che forse era un po' ebrea e le hanno detto che era un po' giovane. A casa ha ripetuto che non partiva più perché l'avevano trovata troppo giovane, ma a me ha detto la verità, che aveva saputo da Mimì. E perché non ha detto la verità a casa? Perché non avessero paura, o meglio, perché non ricominciassero ad aver paura. Non mi hanno mai dato l'impressione di aver paura, esclamò Robert. Neanche a Zazà e a me, perché di sicuro ce la nascondevano. Erano ancora quasi dei bambini quando ci hanno fatto. Dei bambini che avevano sempre avuto paura. Allora hanno voluto fare dei bambini che non avessero paura. Ce ne siamo accorti da poco, Zazà e io. È stato necessario che ce ne andassimo di casa e che ci ricordassimo certe cose che ci facevano ridere a quell'epoca. Delle cose che io ho conosciuto? Figurati. Paul Dumais assassinato da Gorgulov, per esempio, te lo ricordi? Avevamo 13 o 14 anni, no? Beh, la prima domanda di mia madre quel giorno è stata: Gorgulov non è mica un ebreo? No. Non era un ebreo, uffa! E solo allora si è potuto piangere sulla morte del povero presidente e sulla sua povera moglie, sui suoi poveri figli, diversi dei quali avevano dato la vita per la Francia. Si è potuto piangere nelle cucine del secondo piano con la coscienza tranquilla, proprio come si piangeva al primo piano nella cucina dei gemelli Bonnet, e maledire con tutta tranquillità l'assassino straniero, assolutamente non ebreo, del grande presidente francese. A pian terreno, quella sera non si piangeva affatto in cucina, corresse Robert sorridendo. Si discuteva, perché era un enigma. C'erano due cattivi da azzannare, la vittima e l'assassino. La vittima era uno sporco colonialista e l'assassino uno sporco controrivoluzionario, sicché non riusciva tanto bene a orientarsi, papà. Ma come ti è tornata in mente questa storia, Gorgulov? Per via di Weidman e delle sue sei innocenti vittime. Mia madre ha ritrovato esattamente lo stesso tono. Weidman, sei cadaveri, che orrore! Ma di un po', Weidman non è mica ebreo. No, è semplicemente tedesco, come Hitler, le ha detto Zazà. E allora? Allora niente. Mia madre ha guardato Olga e si è messa a parlare d'altro, come quando eravamo piccini. Loro non vogliono parlare di Hitler davanti a noi. Hitler è lontano, è in Germania, proprio come Pietro era in Ucraina. Qui siamo in Francia, di queste cose non si parla. Quando pensi che ci è voluto il maledetto goulash della vecchia Löwenthal perché si pronunciasse il nome di Pietro in casa, dove tra l'altro non ho mai sentito pronunciare quello di Schwarzbard. È fantastico, però. In compenso se n'è parlato in portineria, disse Robert, ma oggi capisco perché. Anch'io. E perché voi non eravate ebrei, ma soprattutto perché Pietro era antiboscevico. Esattamente. È strano che neanche il vecchio Florian ce ne abbia mai parlato in quel momento, lui che ci parlava sempre di tutto. Ma forse trovava che la cosa non lo riguardava. Lui ci raccontava la storia di Francia, visto che eravamo dei piccoli francesi. Poi Robert soggiunse: Del resto tu e Zazà fate la stessa cosa. Zazà racconta che è troppo giovane perché non si impauriscano e tu lasci fare. E la signora Mimì che fa? Come, Mimì? Lei ci va lo stesso in Germania, pur sapendo che non prendono più Zazà perché è ebrea? Credo, sì. Beh, come vedi, nessuno dice mai niente a nessuno, concluse Robert alzandosi. Posò il bicchiere sul tavolo. Hai ragione, per quanto io t'abbia detto un bel po' di cose oggi, più di quante non me ne abbia mai dette tu, comunque. Perché io non ho un granché da dire, rispose Robert. Aveva fatto il giro della tavola e si era piazzato davanti alla finestra. La luce cominciava a calare. Io non frequento l'intelligenza cosmopolita e dalla finestra della classe dove me ne sto a sorvegliare, non vedo il sole tramontare sull'Accademia francese. Io sto a sorvegliare con un occhio e con quell'altro studio la storia e la geografia sulle dispense. Se sgobbo un giorno sarò quel professore di storia di cui nelle cellule si dirà: lo sapete che sua madre fu portinaia a Parigi e suo padre postino urbano? A piedi, dopo essere stato postino rurale, in climi talmente rudi che doveva, senza sbandare, che doveva che cosa, Gutmann? Che doveva, senza sbandare, per ben servire l'EPT, calzare gli sci come in Russia, uccidere lupi come a Mosca. Più tardi era Barsky, molto prima che a Trotsky, che consegnava i plichi che fecero di lui, quel postino esemplare, il migliore dei ricevitori di tutto il fronte popolare.